Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Buona serata o buon fine serata se ci ascoltate in replica alle 20:45. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo il mio blog Guardie o Ladri sulla prima pagina del Sole 24 Ore online. Tratto dei temi che ormai voi conoscete: legalità, diritti violati e criminalità organizzata. Se manderete dei suggerimenti, dei consigli o anche degli insulti, saranno ben accetti. Oggi parliamo di un grandissimo abuso che viene commesso alla cultura italiana. Il modo in cui noi italiani riusciamo a distruggere quelle che sono le nostre tradizioni, le migliori tradizioni, riusciamo a farci del male anche se magari non vogliamo. Parliamo di un bel articolo che ha pubblicato La Stampa di Torino martedì 27 gennaio, il cui titolo è "Per chi suona lo spreco". Bella inchiesta del collega Alberto Mattioli che tratta il caso dell'Orchestra Sinfonica Siciliana. Pensate, ci sono 34 orchestrali, di cui la gran parte, comunque una buona parte, sono dei precari. Ci sono la bellezza di 51 dipendenti, quindi fatevi voi un po' i calcoli, c'è un dipendente e mezzo ogni orchestrale. A questo punto è scoppiato il problema. Perché? Perché gli orchestrali sono scesi in piazza, in quanto molti di essi sono precari. Immaginate come si fa a tenere un'orchestra sinfonica di così alto profilo. Pensate soltanto all'ambientazione splendida in cui si esibisce il Politeama Garibaldi di Palermo. Come si fa a mantenerla se ci sono così tanti precari? Precari che, ricordiamolo, guadagnano tra i 1.600 e i 1.700 euro netti al mese. Di musica si può campare, ma a volte si sopravvive soltanto. Ebbene, questa orchestra sinfonica, il cui direttore stabile è Alberto Veronesi, figlio del famoso oncologo, è passata nei mesi agli onori della cronaca anche per alcune splendide chicche. Nel suo consiglio di amministrazione, scrive il collega della Stampa, c'è un vicepresidente che è un chirurgo estetico, probabilmente un amante della musica, ma che sta forse ad un CDA di un'orchestra sinfonica come Valentino Rossi all'Hockey su Ghiaccio. Ha dichiarato che effettivamente sentir suonare la carcassa è una gran bella emozione. Non gran cassa, è carcassa. Allora, per avviare la nostra trasmissione, sentiamoci questo frame. Quello che avete sentito era un pezzo del Bolero di Ravella, appunto diretto da Alberto Veronesi. Per parlare di questo e delle difficoltà in cui si trova tutta la regione e del modo in cui gli italiani prendono a calci nel sedere le proprie tradizioni, la propria cultura, noi abbiamo invitato il maestro Davide Alfano, maestro di violoncello. Benvenuto Alfano. Buongiorno e grazie dell'invito. E abbiamo chiamato anche la sovrintendente dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, l'architetto Esther Bonafede. Benvenuta Bonafede. Buongiorno, grazie. Allora, io direi, partiamo con Bonafede. Mi pare che pure voi siate in belle difficoltà, no Bonafede? Sì, siamo in difficoltà, come ritengo purtroppo tutti gli enti lirico-sinfonici che a seguito della trasformazione in fondazione non sono riusciti a trasformare enti economici che si reggevano proprio sotto anche un'altra struttura e un'architettura diversa in strumenti flessibili, più adeguati al mercato, con un concetto di impresa, quantomeno con l'apporto di privati che certo avrebbero dovuto contribuire fortemente, oltre che necessariamente, perché la fondazione, per essere costituita in maniera perfetta, ha bisogno non soltanto dei contributi dei soggetti fondatori, che in genere sono pubblici, ma anche dell'apporto dei privati. Ecco, la interrompo un attimo. Effettivamente ha fatto bene ad introdurre il concetto di redditività, perché ricordiamo che perde 12 milioni di euro l'Orchestra Sinfonica Siciliana. Passiamo al maestro Davide Alfano. Maestro, io francamente, guardi, le dico che mi trovo in difficoltà a parlare con lei, perché amo talmente il mio paese, le mie tradizioni, la nostra cultura, che non so veramente da che parte iniziare con lei, ma com'è possibile essere trattati in questo modo? Le lascio la parola. Guardi, io insieme a 34 miei colleghi siamo precari più o meno da... il più anziano da 15-16 anni come me e poi a scalare insomma via via negli anni che è entrato successivamente. Io mi sono limitato a fare il mio lavoro di professionista perché sono entrato con un concorso, cioè con un'audizione, con graduatore, quindi sostenendo degli esami. Ha avuto qualche spintarella, qualche calcettino nel sedere, Alfano? Sì, per uscire però. Perfetto, benissimo. Quindi infatti mi trovo fuori oggi, insomma, ho un bimbo piccolissimo di 3 mesi, dopo 16 anni di precariato mi ritrovo ad avere contratti di 4 giorni. Nella situazione di Alfano si trovano appunto moltissimi suoi colleghi che si sono incatenati, hanno fatto manifestazioni. Insomma, stanno cercando anche di sollevare Palermo, la cultura di questa grandissima città che ha avuto il coraggio e ha il coraggio di ribellarsi a Cosa Nostra, lo sapete, insomma, grazie anche a Confindustria Sicilia, a tutto ciò che stanno facendo coloro i quali vogliono liberarsi dal morso delle cosche. E quindi è cultura, è città questo, non si può perdere un patrimonio del genere. E allora torniamo al nostro sovrintendente, l'architetto Bonafede. Mi scusi, una curiosità, ma se un precario guadagna 1700 euro, quanto guadagna un sovrintendente? Allora, un sovrintendente in Italia, come un sovrintendente del Teatro Massimo, un sovrintendente della Scala, guadagna 10 volte di più. Io guadagno molto meno, però tutto questo è commisurato a quelle che sono le situazioni economiche che attraversano in questo momento quelle contingenti. E lo stipendio del sovrintendente dovrebbe essere equiparato a quello di un dirigente generale. Non è che lei è sul banco degli imputati, ci mancherebbe altro. Siamo tutti, mi ci metto anch'io come italiano, fiero di esserlo, sulla stessa barca. Vale a dire, tutti dobbiamo remare nella stessa direzione, fare in modo che effettivamente questa prestigiosa orchestra sinfonica siciliana abbia modo di vivere. Quindi questo volevo chiarirlo, perché non è che è una trasmissione che mette sotto accuso il suo ruolo. Anzi, io voglio proprio chiederle questo. Ma adesso i prossimi passi che la regione siciliana farà, quali saranno per cercare di uscire dalla situazione? Perché c'è un cartellone che sta per partire, insomma. Mi sono insediata a ottobre, non perché questo serva a dare anche la misura di quello che ho potuto fare in un anno, però in un anno abbiamo fatto una piccola rivoluzione copernicana, perché quel debito di cui parlava lei non è un debito di gestione, cioè non è un debito che riguarda il bilancio dell'ultimo anno, è un debito di emersione. Cosa vuol dire? Che durante gli anni gestiti da altri sovrintendenti, e io ritengo che l'organo di gestione sia fondamentale, perché ha in mano la situazione della fondazione, ha il controllo della gestione della fondazione, quindi non può non essere chiamato in causa come primo elemento della distonia o del buon funzionamento della fondazione. In tutti questi anni non si sono pagati spesso i contributi previdenziali e assistenziali. A volte, ecco, quindi per uno scandalo nello scandalo, insomma. No, se lei vuole che io le dica assolutamente a cosa è ricondotto il debito, assolutamente le devo dire a cosa è ricondotto. No, ma infatti lei fondamentalmente sta... ha una, diciamo, distrazione nei confronti di quelli che sono obblighi assoluti di un buon amministratore che all'interno del costo. Beh, mi sembra una cosa gravissima quello che lei sta dicendo. Io è una cosa che corrisponde, altrimenti le direi una. No, ma io non ho motivo di non credere. Le chiedo, insomma, il cartellone partirà, ma soprattutto questi precari finalmente potranno avere una lucina in fondo a questo tunnel di precariato anche di 4 giorni, come abbiamo sentito, che dura anche da 16 anni, come abbiamo sentito dal maestro Davide Alfano, che ringrazio. Sicuramente detto loro cose che corrispondono alla verità delle intenzioni, non soltanto del sovrintendente, che ritiene tra l'altro un fatto etico nonché morale, certo, considerare questa continuità come di fatto una presenza artistica imponente di questi, non solo per la quantità ma anche per la qualità che offrono i professori d'orchestra di cui stiamo parlando. La ragione per cui ad oggi non c'è una continuità nel contratto è dovuta a una delibera di giunta regionale che oggi ci inibisce per il contenimento della spesa dal produrre qualunque forma di contratto. Come ho pensato io di trovare comunque una soluzione che tenga conto del fatto che molte di queste famiglie sono monoreddito, non entriamo. Ecco. Prego, lo dica sinteticamente. In un secondo. Noi pensiamo di fare loro, e questo è certo, dei contratti che sono correlati alla produzione. Questo, come lei sa, il decreto Sciutti, il famoso decreto Sciutti, lo prevede a prescindere dalle risorse della gestione. Per perché la 367 prevede che sono le risorse che condizionano la gestione e non viceversa. Quindi Bene. Se non ci sono risorse non si possono fare i contratti. Bene. Ciò non toglie che proprio perché la difesa dei professori d'orchestra, che rappresentano la missione fondamentale della Fondazione, è un pensiero del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, che è l'assessore del turismo, e di questo sovrintendente che le parla, noi non abbiamo nessuna intenzione di lasciare queste persone in una condizione di precarietà. Bene, io la interrompo, architetto, perché il tempo a nostra disposizione è finito. La ringrazio soprattutto perché ha portato una luce di speranza. Ritorneremo, lo prometto, se le cose non dovessero mettersi nel verso giusto, a parlare di Orchestra Sinfonica Siciliana. Grazie ai nostri ospiti, in regia Carmelo Lauricella, in studio Laura Faggin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.